Magazine 24, la rassegna dei settimanali, a cura di Mauro Meazza. Buona domenica a tutti da Magazine 24, benvenuti alla nostra puntata, seconda puntata settimanale. Come sapete, questo programma dedicato alla rassegna stampa dei settimanali va in onda sia il sabato sia la domenica, sempre a quest'ora. Andiamo a curiosare qua e là nella stampa italiana e straniera, non necessariamente poi nei settimanali, allarghiamo anche un po' con la periodicità e ci occupiamo anche di mensili, di allegati magari alla stampa quotidiana che potete facilmente trovare in edicola. Vi informo che c'è una moda culturale molto particolare, me lo ha segnalato l'Espresso, ce lo sta segnalando l'Espresso. Sabina Minardi ci dice che stiamo diventando tutti pazzi per Roma, nel senso di Roma antica. C'è una sorta di riscoperta, di rilancio di Roma antica, che è fatta sia di cose molto visibili, di particolari, di accessori del vestiario, ma anche di riscoperta da parte dei film, dei libri. Spiega infatti l'articolo, appunto intitolato Tutti pazzi per Roma, lo trovate sull'Espresso di questa settimana. Vanno forte gli elmi, vanno forte i gladiatori, vanno forte i condottieri, le armature, sia al cinema sia su internet, ma anche in TV, nei libri. Trionfa insomma la storia dell'impero romano, una nostalgia di grandi narrazioni, di una chiave che interpreti il presente. Bella la definizione che dà Duccio Canestrini nell'articolo appunto dell'Espresso. Dice: questo è un po' un esotismo temporale, anziché un esotismo geografico latitudinale, cioè andare a cercare cose inattese come luoghi fisici. Si viaggia qui nella storia, nelle pietre su cui poi noi italiani specialmente inciampiamo tutti i giorni, perché a differenza di altre mitologie che nascono e muoiono nei pixel dei monitor e fanno frutto di fantasy, di eroi pseudo mitologici, questi personaggi e le loro gesta si ritrovano in vestigia che sono tangibili quotidianamente. Prosegue Sabina Minardi questo ragionamento di Canestrini: sarà recupero delle tradizioni, sarà nostalgia di grandi narrazioni, sarà nostalgia di un passato glorioso rispetto a un presente che non lo è più. Certo è che il feeling con l'antica Roma rimbalza da internet ai libri, dalla fiction al cinema, dai giochi alle mostre. È una passione forte, una passione transgenerazionale, quindi avvolge più fasce di età, come quella che appunto riunisce attorno a un tavolo da gioco. C'è anche un SPQ risico, naturalmente dalla sigla nota SPQR Risico, in cui si interpreta il ruolo di comandanti militari che devono dimostrare valore e capacità strategica per diventare poi imperatori. E non lo sapevo, ma lo apprendo leggendo l'Espresso: il Debello Gallico è tra gli ebook più scaricati di iTunes, cioè tra i volumi digitali che sono più scaricati appunto nelle librerie, nella libreria digitale iTunes. Poi naturalmente ci sono le ricostruzioni in 3D nelle varie applicazioni per l'iPad, dove rivive l'esercito romano. Insomma, c'è una fiorire di letteratura che sembra tutta convergere, di letteratura, di filmografia, di giochi persino, che sembra appunto tutta convergere attorno alla Roma imperiale. Pompose esibizioni di potere, continua lo stesso Canestrini, che però sono poi diventano un potere affascinante in un'epoca in cui il potere spesso sceglie invece il profilo basso, quasi una passione da riflusso, dice lui. E c'è un bel contributo affidato a Eva Cantarella, che è una latinista che insegna poi il diritto romano all'Università Statale di Milano e nonché autrice di numerosi saggi su Roma e il mondo antico. Eva Cantarella, sempre sulle pagine dell'Espresso, in un titolo molto spirituale: sono pop questi romani, dice appunto, conferma appunto, sono popolarissimi i romani. Film, serial televisivi, giochi elettronici, gadget, fumetti, libri, giochi di guerra, c'è un'invasione di romanità. Come spiegarla? Se il revival fosse solo italiano, potremmo pensare al desiderio di dimenticare magari un presente non esattamente esaltante, trovando rifugio in un grande e glorioso passato. Ma come tutte le mode culturali, anche questa invece è nata negli Stati Uniti, cosa peraltro che a pensarci bene non può sorprendere, spiega sempre Cantarella, perché il rapporto privilegiato tra gli americani e Roma risale al tempo della guerra d'indipendenza, quando, alla ricerca di un luogo al quale ricondurre quantomeno idealmente le proprie radici, i padri fondatori degli Stati Uniti lo trovarono proprio a Roma, e più precisamente nella Roma repubblicana, con le sue virtù civili, il suo eroismo, la sua libertà. Se ci facciamo caso, ci sono fasci littori che campeggiano negli edifici pubblici statunitensi. Un solo esempio, spiega sempre Cantarella: nel Lincoln Memorial a Washington, una statua rappresenta Abramo Lincoln seduto su una poltrona i cui braccioli sono appunto due fasci littori. E allora, visto che stiamo imparando che la storia, o almeno certi periodi storici, diventano estremamente popolari, stiamo sulla storia con un mensile dedicato alla storia, si chiama Storica, è la rivista National Geographic, è già disponibile il numero di aprile, 2011, come sempre molti spunti dal nostro passato, recente o meno recente. Tra le varie domande, una rubrica molto interessante tutti i mesi, si chiama Risposte dalla Storia. I lettori pongono delle curiosità, delle domande, e gli esperti della rivista rispondono. C'è un lettore che chiede come veniva curata la miopia nell'antichità. Effettivamente è una domanda tutt'altro che banale, perché la risposta della rivista è che purtroppo per gli antichi la miopia non veniva curata, perché la possibilità di correggere la vista attraverso il vetro non fu mai presa in considerazione, se non sporadicamente. Tuttavia questo disturbo visivo era diffuso e conosciuto nell'antichità, tant'è vero che il termine deriva dal greco myops, che significa colui che chiude gli occhi, ed è noto, chi è miope tra di noi lo sa, che i miopi hanno la tendenza a strizzare gli occhi per riuscire a vedere un po' meglio da lontano. Però sia i greci sia i romani, sia gli stessi egizi, curavano altre malattie oculari, facevano anche degli interventi di rimozione della cataratta, ma non seppero mai curare la miopia, e lo stesso accadeva con la presbiopia, cioè la difficoltà a leggere, a vedere da vicino, il che impedì per esempio a molti autori antichi di continuare a leggere e scrivere in età avanzata. Si sa che Cicerone, divenuto presbite, si faceva leggere i testi dagli schiavi. Solo nel Medioevo sono entrate in uso le lenti correttive, comparvero agli inizi del XIV secolo in Italia, ma le prime erano non per miopi ma per presbiti. Solo più di un secolo dopo, nel 1450, apparvero le lenti concave per miopi. La loro invenzione è attribuita al cardinale tedesco Niccolò Cusano, che era un filosofo, teologo e scienziato, e il testimonial più celebre per questa nuova invenzione fu Papa Leone X, fortemente miope come tutta la famiglia Medici, e che rimase nella storia tra l'altro per la bolla del 1521 con cui, scomunicando Martin Lutero, diede inizio alla Controriforma. Ancora una citazione da Storica, questa volta una vicenda invece trasversale, cioè che non riguarda un periodo preciso ma invece attraversa più fasi storiche. La storia delle cose, i metalli, questo mese, su questo numero di aprile di Storica, i metalli che cambiano il mondo antico. E nell'articolo di Massimo Bozzo si apprende ad esempio che 8000 anni fa iniziava l'età dei metalli, gli uomini hanno cominciato ad abbandonare progressivamente l'uso della pietra per iniziare a realizzare con i metalli i primi attrezzi. Il rame è probabilmente il metallo che venne impiegato per primo, era già in uso per fabbricare manufatti di secondaria importanza in periodi in cui la pietra e l'osso venivano comunque utilizzati per fabbricare la maggior parte degli oggetti di uso comune. Ci sono dei manufatti che risalgono a 9000 anni fa, li abbiamo trovati in Iraq e in Turchia. Solo nel 5000 a.C. l'uomo ha imparato a estrarre il minerale grezzo e a fonderlo in forni simili a quelli della ceramica, forni che grazie a una circolazione dell'aria particolare riuscivano a raggiungere la temperatura necessaria, che è di 1100 gradi, quindi una temperatura non semplice da raggiungere, specialmente con non disponendo delle tecniche moderne. L'antica presenza del rame in Europa è confermata dall'uomo di Similaun, perché accanto a questa mummia, che è del 3200 a.C., è stata trovata un'ascia con lama in rame puro al 99,7%. Dopo il rame, la rivoluzione del bronzo e poi l'età del ferro. L'età del ferro che non iniziò, questo è interessante, con l'estrazione del minerale, ma con l'uso del ferro meteoritico, cioè il ferro che si può trovare nelle meteoriti che piovono continuamente sulla Terra. Un ferro che si riconosce perché ha un'alta percentuale di nichel. Infatti gli egizi, i babilonesi, gli ittiti, gli assiri definivano il ferro come inviato dal cielo, ma c'è anche un versetto del Corano che attesta l'origine meteoritica del ferro, dice: noi mandammo il ferro, il quale ha una forza incredibile e porta molti benefici all'umanità. Quindi il ferro come metallo celeste. Ci sono ancora degli esemplari antichi di questo ferro meteoritico utilizzato per costruire armi, per costruire attrezzi della vita non tanto quotidiana, perché, come spiega lo stesso Bozzo su Storica, il ferro meteoritico era così raro da essere poi molto più prezioso dell'oro. Tra l'altro, per la valenza divina, per la loro valenza divina, le meteoriti più grandi poi venivano poste nei luoghi sacri. Ma ad esempio una pietra sacra di questo tipo, anche quella dell'oracolo di Delfi, la pietra nera della Mecca, è dello stesso tipo, così segnala Bozzo su Storica del mese di aprile, già disponibile in edicola. Allora, pochi secondi prima di cedere la linea alle informazioni sul traffico, io vi segnalo, visto che stiamo parlando di storia, che prosegue la nostra collana, la collana del Sole 24 Ore dedicata alla storia delle religioni. Ogni domenica un volume nuovo, si comincia proprio oggi con il volume dedicato a Sant'Agostino. La storia delle religioni poi proseguirà appunto con ritratti di questi grandi personaggi, tra cui appunto anche Martin Lutero, Gandhi, Maometto, Confucio, insomma tutti i personaggi che possono aiutare a comprendere i primi sei volumi, a completare i primi sei volumi che avete trovato in queste settimane con il Sole 24 Ore. Magazine 24. Buona giornata, bentornati a Magazine 24, ancora buona giornata da parte mia. Stiamo parlando di questioni storiche, allora facciamo un avvicinamento al presente, un avvicinamento ragionato con la rubrica Fatti e Credenze di Luca Ricolfi. Questa settimana su Panorama, il divario tra sud e nord d'Italia, per scoprire che le nostre credenze, come dice lo stesso Ricolfi, sulle ragioni del sud e del nord sono sempre state molto unilaterali, per non dire partigiane. Per capire perché dobbiamo prima di tutto liberarci, prosegue Ricolfi, di un'abitudine mentale sbagliata, quella di confondere il reddito prodotto da un territorio con il reddito disponibile in quel territorio. Perché è chiaro che in presenza di un grande settore pubblico, di ampi trasferimenti e sussidi, di ad esempio un'elevata evasione fiscale, i due tipi di reddito possono divergere radicalmente e quindi restituirci due storie del tutto diverse anche del nostro paese. Spiega che dopo l'unità, spiega Ricolfi, è stato il sud a pagare il conto, ora è il nord invece a essere più saccheggiato. Questo è il termine utilizzato proprio da Panorama di questa settimana. Dice Ricolfi, se guardiamo alla storia del reddito prodotto, gli studi rivelano che il divario nord-sud non esisteva al momento dell'unità d'Italia, però si è prodotto successivamente, precisamente nei primi 90 anni del regno, dal 1861 al 1951, anche a causa della politica fiscale. Beh, nel 1951 naturalmente il regno era già finito e stiamo già parlando della Repubblica, anche a causa della politica fiscale doganale del nuovo Stato. Il divario è sempre cresciuto, mentre nei successivi 60 anni, cioè diciamo dagli anni 50 del secolo scorso per arrivare poi ai giorni nostri, questo divario si è in parte ridotto, specie nel primo ventennio di attività della Cassa del Mezzogiorno, tra il 1951 quindi e il 1971. Oggi il divario è intorno, segnala Ricolfi, al 59%. Cosa significa? Che il prodotto pro capite del sud è un po' più della metà di quello del centro-nord, ma del tutto diverso è il divario in termini di reddito disponibile, cioè si produce decisamente meno, ma come capacità di spesa, come capacità di vita, la distanza è inferiore. Dice, qui è difficile ricostruire l'intera storia. Il risultato finale però è abbastanza chiaro, il tenore di vita medio delle regioni del sud è comparabile a quello del nord. È un pochino meno, del 12% in meno, se si guarda solo ai consumi privati, è invece un po' maggiore, più 13%, se si tiene conto di tutto, cioè i consumi privati, i consumi pubblici e il tempo libero. Queste le indicazioni sul divario nord-sud, divario soprattutto economico nord-sud, proposte da Luca Ricolfi in questo numero di Panorama questa settimana in edicola. Cambiamo decisamente argomento, torniamo su un mensile, questa volta su Focus, mensile come sapete che si occupa di scienza, di divulgazione scientifica, di curiosità tecnologico e scientifiche. Traggo ad esempio un primo consiglio che magari potete già applicare approfittando della giornata festiva: cammina veloce, vivrai 10 anni di più. Questa è l'indicazione che viene tra le prime pagine di Focus, quelle che la stessa redazione battezza come buone notizie. Spiegano su Focus, volete vivere più a lungo? C'è un modo semplice: camminare, magari di buona lena. C'è uno studio del New England Journal of Medicine che aveva fatto scuola, era del 1998, aveva dimostrato che camminare 30 minuti al giorno riduceva il rischio di tumori. C'è stata una ricerca recente dell'Università di Pittsburgh che ha confrontato una serie di studi su 35.000 soggetti che hanno più di 65 anni. Questi studi hanno provato che chi camminava veloce viveva più a lungo, perché hanno esaminato appunto una velocità, hanno individuato una velocità sufficiente, che è quella di 3,6 km all'ora, quindi un camminare diciamo sostenuto anche se non velocissimo, e tra gli uomini di 75 anni è stato notato che i più veloci nella camminata avevano l'87% di probabilità di vivere altri 10 anni contro invece un solo 19% dei più lenti. Quindi una bella camminata, però una camminata ci segnala focus di questo mese a ritmo sostenuto. Restiamo su Focus per un'ultima segnalazione, il solletico. Focus nelle sue varie sezioni ne ha una dedicata appunto al comportamento. Ti faccio il solletico, si chiede che cosa è così soddisfacente, così irresistibile nel solletico tra le persone. Farsi il solletico, segnala Elisabetta Intini su Focus, è uno dei giochi preferiti dai bambini di tutto il mondo e abbatte le barriere culturali. Ci sono stati degli esperimenti in Gran Bretagna, negli Stati Uniti, i ricercatori hanno verificato che il solletico è universale e la risata è universalmente poi associata all'essere solleticati, riflette la sensazione di piacere del gioco. Perché? Allora la domanda è: perché il solletico ci fa sbellicare? Quali origini evolutive ha? Gli studiosi qui sono un po' divisi, hanno diverse ipotesi. Bisogna distinguere tra vari tipi di solletico, perché ci sono anche questi lievi contatti come di mani o di piume che non scatenano risate, anzi possono dare prurito. Ad esempio può capitare quando si ha un insetto che si arrampica sul corpo, è una sensazione assolutamente sgradevole. Invece il solletico cosiddetto gradevole si chiama gargalesi, è dato dalla pressione dal movimento delle mani e provoca appunto risate. Si pensa che questo gioco serva, oltre a provocare buon umore, anche come momento importante dell'evoluzione, cioè siccome si concentra su alcuni punti molto più sensibili del nostro corpo, che però sono anche punti di particolare importanza, il collo, le ascelle e i fianchi, allora sono le zone più vulnerabili in caso di combattimento, quindi rappresenterebbe una sorta di addestramento che si comincia da bambini per poter imparare a difendere, a non offrire al nemico, al qualcosa di avverso, insomma, i propri punti più deboli. Un gioco quindi che serve, come dicevo, ad apprendere meccanismi di difesa, stimolando reazioni di contrazione e raggomitolamento. Spinge in qualche modo ad allontanare l'aggressore, che può essere un amico dispettoso nel senso buono oppure anche un nemico reale. Tra l'altro c'è anche una tabella che spiega quanti secondi di risate o comunque di buon umore produce il solletico a seconda della zona interessata del corpo. Le ascelle vincono alla grandissima. Vi segnalo che secondo la grafica di Focus sono in grado di provocare più di 2 secondi, quasi 3 secondi di risate e solletico. Poi via via la vita, il costato, i piedi, per scendere verso le ginocchia, la gola, ma naturalmente poi ognuno di noi ha maggiore o minore vulnerabilità alle zone del solletico. E allora abbiamo chiuso con un argomento un po' più leggero. Vi do un ultimo consiglio d'acquisto: se siete interessati, con il Sole 24 Ore trovate in edicola Colf e Badanti, che è un volumetto in cui sono raccolte tutte le indicazioni essenziali per chi si occupa di questo tipo di lavoro, per chi ha una Colf, per chi ha una Badante. In allegato c'è anche un software per calcolare la busta paga, è in vendita a 11,50 euro più naturalmente il prezzo del quotidiano. Con questo concludiamo la nostra puntata di oggi. Grazie a Paolo Corleoni stamattina in regia, grazie ad Anita Panizza. Se volete scriverci, magazine24@radio24.it. Buona domenica a tutti.